Signore e signori, le pillole del divertentismo di Sandrino, Nadia e Nicola. Classico appuntamento del sabato notte, ormai consueto, sì, le pillole, sabato 10 novembre 2018 con me, Nadia e Dave. No, scusa. Mister Dave. Ah, ecco. Mister Dave. Scusa Nadia, mettiamo così senza epiteto. Mister Nadia e Mister Dave. Mister Nadia e Miss Dave. Mettiamo che tesori che siete. Mettiamo i puntini sulle H innanzitutto. Assolutamente. E perché manca Sandrino? Pillole che hanno un'evoluzione intanto perché Sandrino finalmente ha smesso di scegliere posti brutti. La Grecia. Ha abbandonato la Grecia e è andato in Thailandia. È andato a fare una maratona. In Thailandia? Sì. La maratona degli squali. Ah, certo. Bello, e c'era bello, bisogno bello. Di andare in Thailandia, scusa. Esatto. Beh, però lì non ti, almeno non ti beccano, capito? Scusami. Non ti beccano. Dopo la maratona di New York. Stiamo dicendo la radio, no? No, dopo la maratona infatti, di New York. Dicevo, pillole. Nadia si è negata per una settimana. Io lo capisco. A te mi sono negata. A tutti, non a solo a me. Tutti. Questo lo pensi te. Infatti dicevo, pillole che finalmente hanno una bellissima evoluzione. Intanto perché Sandrino ha cambiato la sua destinazione e non lo dobbiamo più credere in Grecia. E perché finalmente torno a fare il mio lavoro, che è quello dell'intervistatore. E il grande tema che prenderà questi minuti di cui parleremo non è la serata per una volta, ma New York, perché i nostri ragazzi qui, due dei 7-8 esponenti, quanti erano? 9. Due dei 9 esponenti di questo bel viaggio targato convento possono raccontarci com'è andata. Intanto partiamo dal motivo, che è un motivo validissimo. Shopping. Non è vero. New York City Marathon 2018. Che per i non poliglotti significa la maratona di New York del 2018. Exactly. Ma non per andarla a vedere, ma per fare da bodyguard, diciamo così, alla più il reportage. Sì, no, da bodyguard fisici. Giornalistico. Esatto, da bodyguard fisici e giornalistici, alla più improbabile delle runner, ma alla più concreta delle runner, perché ci ha stupiti la tutti. La più inarrestabile, la più inarrestabile. È un carro armato, ragazzi. Sì, è un carro armato. Ivana è un carro armato. Una non umana. L'abbiamo sempre saputo, ma adesso ne abbiamo avuto la conferma. Ginocchio rotto. Tutte le rotto. Ginocchio, scusami. Beh. Addirittura rotto. Ginocchio? Beh, micro. Come le cuffie micro fratture, mi risulta. Ah, micro frattura. Sì, sì. Ecco, in sostanza. Sì, ginocchio rotto con quante R? Sì, è bella, ma rotto, sai che c'ha, rotto, c'ha rotto. Questa R così romantica, so, così e sexy. Mettiamo una R anche in ginocchio. Grinocchio. Grinocchio. So, with a broken knees. With a broken knee. She ran. One knee. Broken knee, tu hai detto knees, sono tutte e due, poverino, già. No, è perché c'ho la zeppola. Ah, sento. Ok. Quindi, riassumendo le puntate precedenti come fosse Beautiful, Ivana è ovviamente il convento, perché Ivana non si può scindere dal convento, e ha preparato questa maratona per un anno intero, e a un paio di settimane dalla maratona, pac, nel modo più improbabile di tutti, perché penso stesse giocando col cane o qualcosa del genere. Diciamo che lei non voleva giocare, il cane che stava giocando, sì, ecco, con scusami, lei. Il cane stava giocando con così. Lei, insomma, ha messo giù male questo un barboncino. Ha messo giù male il ginocchio e quindi ha rischiato di rovinare tutti i piani fatti nell'ultimo anno. È comunque un'esperienza fantastica. E l'umore, lo stato d'animo con cui è partita è, vabbè, io non parto 120. No, beh, no. No, allora, l'umore e lo stato d'animo erano io comincio e vedo dove arrivo. Sì. No, però diciamo che era molto rassegnata. No, questo ce l'ha fatto credere. Però per farla partire. Sì, però i boombakers la davano forte. No, assolutamente. Sì, la davano spacciata. Sì. Non avrebbe nessuna speranza. Esatto. È un po' Juve Spal. Cioè, giocare il 2 su Juve Spal. Sì, peggio anche. O come cos'era Aldo Juve Cremonese. No, aspetta, era Aldo, Giovanni e Giacomo, se non ricordo male. Quando di fronte, poco prima del matrimonio di uno dei tre, che non ricordo, chiaramente un film. Giacomo l'hanno guardato e detto: Giacomo, ma tu hai fatto qualche follia nella tua vita? No, era Aldo. No, sì, era Giacomo. Tu hai fatto qualche follia nella tua vita? E lui ha detto sì, una volta ho messo 2 a Inter Cagliari. Quindi più o meno era quello l'umore di Ivana, che invece è partita. E è arrivata. No, non solo è arrivata e non siamo più riusciti a fermarla. E piano piano il pallino del GPS ha continuato ad andare avanti fino a passare la linea del traguardo. e non è partita in turistica, cioè nel senso ha fatto la sua maratona con un tempo incredibile, incredibile. Sì, sì, esatto, meglio ancora degli anni scorsi. E anche quando esatto dei pronostici, quando era più in forma. Quindi questa è la dimostrazione di quanto la testa possa la a volte essere molto molto più forte di ogni tipo di fisico. Vorrei prendere un attimo in mano le redini. Prendile, e prendile. A Nadia, che cosa ti è piaciuto di più degli States? Invece in questo giro, invece, perché Nadia è una recidiva. Io invece, perdonami se salto sopra Nadia, mi piacerebbe anche in un certo senso, però non in questo caso. Io lo vorrei chiedere al Vergine di New York. Prima lo vorrei chiedere al Vergine di New York, perché per chi era sì, la prima volta. Poi parliamo con l'esperta, però prima parliamo col novellino. Ragazzi, fantastico. Perché sentire l'emozione di chi ci va per la prima volta, direi che è ancora più forte. È tutto veramente big, veramente grande. E non è una battuta. No, è reale, veramente. Sì, sì, sì. Anche quando cammini per strada. Esatto. Questi grattacieli che veramente sono alti. E ma la cosa che mi ha colpito di più è la gente veramente friendly, molto amichevole. Alla mano, sì. Cosa che qua da noi a volte tu ti fermi per strada, scambi una chiacchiera, scambi una battuta così. Se ci riesci. Sì, ma anche se ci riesci ti mandano a cagare. Certo. Ecco, o invece, non ti danno comunque cosa. Esatto, no, invece lì è come se fossi amico di tutti, fai una battuta, lui ne fa un'altra, lei ne fa anche le ragazze. Certo. Senza timore. E la cosa che ti ha colpito di più, indipendentemente da averla vissuta a New York, cioè il ricordo che hai? Il manganello di quel poliziotto a Brooklyn, perché non potevo riprenderlo, invece... Ah. Il manganello, ok. Anche lì, la polizia molto, molto friendly, amichevole, cioè... Uh-huh. Non è che ti guardava dall'alto al basso così, ti invitava in maniera autorevole a seguire le regole. Esatto, ma non dall'alto al basso, cioè dai. E questo è il Dave giornalista, il Dave turista invece cosa si porta a casa? Cioè, esatto, i nostri ascoltatori non hanno visto. C'erano molte Renault anche a New York. Vabbè, come direbbe, no, adesso scherzi a parte. Felice Bianchini è stato. Come turista, cosa intendi? Cioè, come turista, avrei guardato, avrei aperto gli occhi. Esperienza personale, delle mille, al di là dell'aspetto culturale, delle 1500 emozioni, dei 1500 input che può dare New York, il tuo. Che ubriacarsi è veramente caro, cioè, costa molto. Per cui, per cui è tornato in Italia. Esatto. Ho smesso. L'unico motivo per cui è tornato in Italia. Ho smesso. Anche le sigarette ho fatto, non so se hai notato, ma un pacchetto di Marlboro $15. Cavolo. Sì, sono tanti. Sì, son tanti. Pratica sono €14. Sì, ma in realtà è tanto per noi con i nostri stipendi. Per sì, il tenore di vita è diverso, come la Svizzera, non fondamentalmente. Non è un problema. Bene, adesso passiamo alla guida turistica di New York, la nostra Nadia Convento. Non ho capito la domanda. La domanda per te è diversa, cioè quale emozione si può ritrovare a rifare per la X volta lo stesso viaggio? Cioè dove si cercano? Quello che è stato interessante per me, però ripeto, avendoci vissuto negli Stati Uniti, conoscendo New York abbastanza bene e avendo visto anche altre città ben più grandi, non avevo colto tutte queste cose qua, per cui andare con persone che non erano mai state, che poi dice, ho visto questo o quello, mi ha fatto rendere conto anche a me di questa cosa. Certo. Per esempio il discorso che sono le sirene, ok, non mi ero mai accorta. Scusami? Le sirene o altre cose, non mi ero mai accorta. Quando me l'avete fatto notare voi, ho detto, sì, è vero. Però sono cose che non ti rendi conto. Farsi trascinare dall'emozione. Come quando dalla... arrivano gli americani in Italia che mi dicono, and then I ate gelato, and gelato, you know, it's got eggs in it. Cioè, rimango stupito del fatto che, per esempio, noi mettiamo le uova nel gelato. Puoi fare la traduzione? È quello che ho appena fatto. Per noi è una cosa normale, ma te lo fanno notare da fuori. Per chi vive in un posto non se ne rende conto. Sì, o anche... Per cui per me l'esperienza è stata andare a New York con degli italiani. Quella esatto, è stata la mia esperienza. O anche l'eccezionalità di un piatto di spaghetti cucinato bene, che per noi, non dico sia consuetudine, esatto, ma quasi. Esatto. Per un esterno è una magia. Abbiamo mangiato da Carmine a Broadway. Carmine. Ah, sì. Che Carmine. È scritto Carmine, ma invece si dice Carmine. Oh, come mi piace quando me lo dici così. Che è la traduzione di mio cuore, Carmine. Carmine, è scritto Carmine. Sì. Beh, c'è una valanga di imprenditori italiani che si sono spostati a New York e hanno aperto lì veramente degli imperi. E a tal riguardo diciamo che secondo me una delle esperienze più interessanti e senz'altro del tutto nuova per me è stata la visita a Ellis Island, che appunto per il discorso che dicevi te è l'isola in cui arrivavano tutti gli immigrati. Mm-hmm. E sappiamo benissimo che addirittura nel 1923 il 75% degli abitanti di New York era di provenienza di prima o seconda generazione di immigrati. Per cui questo aspetto qua bisogna sottolinearlo, perché io penso, non ci rendiamo conto di io non sono così preparato in storia, no, però parlo io solo perché sono stata a questo museo, no, nel senso scorsa, non sono così preparato in storia, ma parlo per l'argomento che mi compete e che conosco meglio. Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare, tu vuoi fare l'americano, e così si vuole. Anche la canzone italiana ne parla spesso. Sì, però io vorrei far notare che il 90% degli americani sono europei, sì, o immigrati. Esatto. E gli veri americani sono gli indiani. Sì, giusto, giusto. Gli abitanti originari sarebbero gli indiani, che purtroppo sono pressoché estinti, sì, nonché relegati in questi riservoari. Vabbè, ma questi sono altri discorsi. Sì, lì discorsi da libri. Discorsi da libri. No, beh, però teniamolo presente. Assolutamente, assolutamente sì. Bene, allora diciamo che finalmente abbiamo fatto anche una puntata un po' diversa, perché era giusto vivere anche le emozioni quasi culturale, oserei dire. No, beh, di un bel viaggio fatto insieme, perché no? Perché no? E per tornare sulla terra no, non in quel senso. Per tornare sulla terra vi diamo anche un altro appuntamento, perché tornando a casa si ritrovano anche le buone abitudini, indipendentemente dalle serate che vanno avanti. Lo so io. Mercoledì 14 ritorna anche la grande festa dei single. Sì. Che ormai non è più la festa dei single, ma è single. Ah, cioè, ok, cioè, certo. C'ha già, quell'accento, single, single. No, pensavo io stessi per sbifferare. No, la non lo farei mai. Se tu li teniamo ancora lì, perché esatto, è una grande novità, esatto, uno sconvolgimento, c'è, un miglioramento. Diciamo, no, pensavo io invece dell'ultimo dell'anno, perché secondo me ora è l'ultimo dell'anno. Beh, arriveremo anche a quello, c'è tempo assolutamente. Però dicevo l'importanza di questa festa dei single, perché sarà, ve lo anticipiamo, l'ultima festa dei single, ma non perché smettiamo di farle, ma perché ci sarà un'incredibile evoluzione di cui capirete nelle prossime ovvero settimane. Ovvero voi arrivate single, vi accoppiamo noi. No dai, scherzo. Ci penso. Oppure come piace dire a Sandrino, perché ha interesse nel dirlo, se non vi accoppiate potete sfogarvi sullo staff a vostra discrezione e libertà. Anche perché noi per contratto non possiamo rifiutarci. È purtroppo una clausola, ripeto, che abbiamo firmato. Ripeto, vale solo per lo staff maschile. Certo, certo, vale solo. Perché ricordiamoci sempre che è sempre comunque la donna a scegliere. Assolutamente. E Nadia è magnifica. Non sempre, non sempre, perché c'è stato un caso di un estraneo, che però probabilmente adesso sarà espatriato, che non ha risposto a un messaggio di Nadia. Incredibile, sì, nemmeno, ha avuto ha avuto la faccia tosta di mostrarle davanti agli occhi che nemmeno l'aveva visualizzato. No, non aveva scaricato l'immagine, no? Oh. Cioè, è terribile. Quindi c'è stata una persona che è stata che ha rifiutato Nadia. Cioè, esiste nell'universo. No, è incredibile. Uno, Ora si capisce il fatto che questa sera era veramente mogia. E... Esatto. Beh, ora si capisce anche che l'Italia ha un cittadino in meno. Nel senso che è stato gentilmente mandato, ragazzi, oltre i confini. Abbiamo fatto sembrare un incidente. È stato gentilmente accompagnato oltre i confini. No, peggio. Però ci ho messo tanto a farlo sembrare un incidente. Adesso non diciamo queste cose in radio, perché dopo riconducono a me l'origine e tutto. Quindi, anche perché ho pagato parecchio per, insomma, eliminare questo individuo. Com'è giusto così? Due birre. Devi dirlo giusto. Ragazzi, io... Com'è giusto che sia, quindi avrete capito che siamo in periodo di grandi novità, di grandi attese e aspettative, perché ci sarà questa festa dei single che si evolverà e questo grande capodanno che tra un mesetto e mezzo, poco meno, 50 giorni, ci attende, o meglio attende voi, perché noi saremo qui a fare il nostro onorato servizio, e sarà una festa indimenticabile, non perché lo diciamo noi, perché lo dicono le prenotazioni che già abbiamo avuto e il feedback che già abbiamo ricevuto da tutti quelli che vorranno stare con noi. Detto questo, mentre Dave prende l'aria condizionata, perché probabilmente non si è ancora lavato quest'oggi, si sta asciugando le ascelle. Esatto, si sta asciugando. Non mi resta altro che darvi la buonanotte e salutare con grandissimo affetto e piacere il nostro caro Sandrino, che ormai non vedremo più praticamente, perché... Ciao Sandri! Ci manchi. Dopo la Thailandia, non so cos'altro di bello ci possa essere nel mondo. Bravo Sandrino, grazie a tutti, buonanotte! Un saluto festoso! Ciao! Ciao.